Dicono che ognuno ha quattro sosia, e per cercarle tutte e quattro ho fatto il giro del mondo e mi sono perso. Ognuna di queste persone era meglio di te, ma solo con te riuscivo ad essere me stesso. Ci siamo uccisi ogni giorno per ricominciare. Giocavamo a farci male, non capivi che se ti guardavo negli occhi mi vedevo migliore di ciò che sono, riflesso nella tua iride. Comunque vado, andrò dritto per la mia strada, sarai sempre la colonna sonora della mia vita. Tra tutte le persone sei la sola che colma perfettamente lo spazio che ho tra le dita. Ricordati di me, anche se di noi non ci sarà più niente. Il cielo sta piangendo ma nessuno sente. È come se ci stessimo aspettando da sempre. Ma quante canzoni serviranno per scordarmi di te? Siamo 7 miliardi di persone ma tu hai scelto me. Comunque vada, anche se sarà finita, sarai sempre la colonna sonora della mia vita. Perdi una volta sola, passiamo il resto del nostro tempo a pensare solo a una persona. Tutte quelle che verranno non saranno nient'altro che repliche di una storia che so a memoria. Tu sei l'errore più grande che ho fatto, un libro aperto letto dall'ultima pagina alla copertina. Eri un errore così bello che non farlo era lo sbaglio più grande della mia vita. Ho scritto il tuo nome sulla mia pelle, così col passare del tempo invecchieremo insieme. Dovrò imparare a convivere con la consapevolezza che un giorno forse non ti potrò più avere. Mi dispiace, devo andare, rimarrò nascosto dentro i tuoi ricordi, anche se questo non è ciò che vuoi. Nessuno potrà mai capire quello che eravamo. Quante canzoni serviranno per scordarmi di te? Siamo 7 miliardi di persone ma tu hai scelto me. Comunque vada, anche se sarà finita, sarai sempre la colonna sonora della mia vita.